Io penserei che dobbiamo tener conto di come è fatta la natura, perché noi siamo fatta parte della natura. La natura non crea due cose uguali, manco mai, mai. Non ce ne sono due alberi che sono uguali. Quindi questa meraviglia che è la biodiversità, noi chiamiamo alberi, ma in realtà ognuno è differente, è lo stesso gli esseri umani. Allora la biodiversità, diciamo, è coevoluta, perché solo così ci può essere la vita. Se fossero stati, che la vita fosse evoluta come il pensiero umano che crea una categoria e poi produce tutto uguale a quella categoria, lì sarebbe... Prova a dividere una corda sempre a metà, non troverai mai armonia. Esatto. Quindi io penso che una delle cose che potremmo fare è, unendo un po' le forze, utilizzare la biodiversità che ci contraddistingue, che è una biodiversità non soltanto di carattere, temperamento, di esperienze, ma di esperienze di vita, di storia, cioè voglio dire, sono storie molto diverse. Questo è interessante. Per me, per esempio, la storia di Attilio è interessantissima, perché tanto, ma anche la tua, perché avete lavorato completamente in settori diversi dal mio. Cioè siete... Noi forse abbiamo... in modo molto diverso. Per te sei sempre stato libero professionista, io sono stato indipendente dello Stato. Quindi voi due siete due che siete sempre lavorato di iniziativa privata. Io, avendone paura, non ci sono mai andato, perché, e quindi ho avuto un tutt'altro tipo di esperienza. Ci sono, credo che ogni punto di vista è come una finestra, no? A far vedere un pezzetto di... E unire questi punti di vista. Io sono molto convinto del discorso di Panica. Oggi nessuna via è autosufficiente. Non c'è nessun tipo di modello. Ogni modello poi c'ha dietro dei presupposti. E per poter liberare la mente, io vedo i presupposti che sono dietro di te, come vedo il tuo accento, mettiamo. Ma non, il mio non lo riconosco, tu vedi, tu sì ti accorgi del mio accento. Quindi è nello scambio che noi riusciamo a capire quali sono i punti ciechi della nostra visione. Ora, la tua visione ancora non l'ho capita su questo, perché tu vai invece a confrontarti con la materia e tu dici che la materia ti dà dei feedback. E va bene, questa è una strada che non conosco, però è un'altra via, è un'altra strada, non so. Questo, ma questo perché... potremmo fare, però veramente è strano che questa cosa qui non sia assolutamente istintiva, ma lo capisco, che non, sì, che non è una pratica che ho fatto, non lo so. Cioè, per me io la capisco, non so come avviene, però secondo me ci sono dei principi Poi saranno universali, che c'entra la materia, c'entra le persone, sì, ma la materia poi è un mezzo per cui tu, no? Però adesso non so, bisogna... Però l'invito che farei è, facciamo queste cose, sì, diciamo, sì, mini, però cercando un po' di portare la nostra, il vissuto. Il vissuto, no? Io direi su questo, per me anche a me interessa. Cioè, va bene la referenza, il libro, se vuoi, però che non so, perché se diventa, come dire, una lezione teorica sua, a me interessa meno, no? Sì. A me interessa sapere che cos'è l'alchimia, ma non... Cioè, se me la racconti tu con la tua esperienza, forse ho più possibilità di capirla, e comunque ti conosco, perché io vorrei anche che ci fosse questo obiettivo, no? Che anche conoscersi, perché forse ci possiamo aiutare di più, no? Poi se tu mi dici, guarda che questo filosofo ha detto questo, va bene, però in un contesto in cui io cerco di portarti il mio percorso, la mia esperienza su quella cosa lì, cioè cosa ho realizzato io, qual è il mio pensiero, no? La mia esperienza anche pratica. So questo, è come se io vi parlassi di meditazione citando i testi di meditazione, forse è meglio che dica, guarda, io mi metto lì seduto e ogni tanto mi succede questa è la mia esperienza, poi questo ha un senso se tu vedi i testi, i libri, non so, io sento questa necessità, perché una comunità è una comunità anche di pratica, non solo, no? E questo forse ci consente di conoscerci di più. Tornando a bomba, quello che dicevamo prima, uno dei motivi, ne parlavo con Mauro, che io dovrei adesso con calma cercarmi anche un laboratorio, cioè un po', sì, non è una cosa facile, un posto dove cominciare a, come si dice, praticare, scottarmi le dita. E questo è fondamentale, perché poi quando riapri quella porta lì succedono dei casini inenarrabili, per cui avere degli amici intorno, tu vai a toccare la tua anima direttamente, tu vai a toccare la tua anima, capisci? E non ci sono dubbi su questo, anzi è la tua anima che ti tocca finalmente, se volessimo rimettere la cosa. Ma questa è quello che intendo io, l'esperienza, questo è un livello importante. Sì, questa è una roba che ti permette un passaggio un po' ostico. Cioè, da questo punto di vista il buddismo è molto pratico. Non è neanche non è un mistico, cioè è No, pratico. no, Voglio dire, una persona certo. che ha raggiunto un certo livello è tornata indietro e ha detto: guardate, io ho fatto così. Provate, insomma. Cioè, poi Sì, in soldoni è questo. Soldoni, poi ci sono state 10.000 interpretazioni, ma i soldoni. Quello che io chiamo cercare Capisci? mezzogiorno alle tre, che è il male degli Però uomini, noi abbiamo non questa, e lo affermo la so, verità e ma non abbiamo dopo questa dire. conoscenza a disposizione, noi ora dobbiamo Sì. cercare di regolarci su questa perché è quello che abbiamo, non siamo ad Atlantide, non c'è una conoscenza primeva, quella purtroppo l'abbiamo persa, sarebbe stato facile. E poi alcuni sostengono che l'anima si incarna proprio per questo, perché deve entrare nel mondo della materia. E lui, sì, perché la vita è semplicemente, come dicevamo l'altro giorno, spirito per materia al quadrato, per cui io è un po' di tempo che quando mi dicono la materia è oscura, dico no, la materia è piena di luce, la materia è Ma piena infatti è di vita, oscura perché non la vediamo, ma cioè la luce è sempre. ha una vita molto più cosciente, forte e Sì, ma sensibile sempre. della nostra, perché non ha l'io, Ah no, ragazzi, questo. non ha Guarda, l'io, ormai su questo io minchia. non ho un certo indirizzo molto È preciso. appercettiva, capisci? Noi abbiamo perso la percezione a causa dell'io, questo Veramente. strumento socratico Ma maledetto non che ha detto vediamo nulla, abbiamo conoscete te stesso un'esperienza e sei che è tutto. così, è limitativa, anche solo sensorialmente, se tu ci pensi, è limitatissima. Limitatissimo. Cioè noi abbiamo proprio Sì. la percezione di ciò che è presente nella realtà, non la vediamo proprio. Cioè le nostre coscienze sensoriali, per Sono questo il limitatissime. lavoro è affinare, in modo da allargare le percezioni. Lì vedi delle cose diverse. Sì. Sì, è fatto percettivo. L'inizio è fatto percettivo, Infatti, siamo nella dico materia. sempre una cosa, come si era conclusa una conferenza che avevamo fatto con i Giardini dell'Anima, molto bella, che c'era questo signore che era un neuropsichiatra che spiegava che cos'è il cervello. Naturalmente noi lo conoscevamo per tutta l'altra parte, che era un alchimista, faceva tutta una serie di cose, però lì veniva presentato come... E la sua provocazione finale era: guardate che in realtà l'anima non esiste, perché l'anima è presente come concetto ideologico soltanto negli esseri che hanno un cervello che pesa più di tot, non mi ricordo quanti grammi, fatemi dire 100 grammi, altrimenti se non arrivi a 100 grammi tu non hai coscienza dell'anima. Naturalmente il gioco speculare era: allora vuol dire che il cervello è una necessità dell'anima, è Sì. Io l'anima che crea questo organo per poter essere lo chiamo percepito. pensiero, in un altro termine, per vedere le E cose. Dio ha creato noi per essere percepito da noi e ha messo dentro tutta una fisiologia che non è quella che ci tiene in vita su questo piano, ma quella che è spenta affinché noi possiamo finalmente ripercepirci. Cioè noi siamo uno, questo concetto semplice, noi cazzo l'abbiamo perso. Ma questo è un L'uno linguaggio che io capisco benissimo, cioè è questo, assolutamente. l'uno Sì. è l'Elohim degli ebrei, Yahweh è quell'altro. Li percepisci ancora Yahweh è perché un extraterrestre, insomma. ma il concetto che tutto è uno anche per me è Esatto, abbastanza non chiaro. tutto è uno, noi siamo uno, non tutto, perché tutto un'altra volta, scusami, Sì, perdonami, ti sì. rigeneralizza. Non esistono 6 miliardi di uomini, esiste un Sì, ma uomo. l'idea è la stessa, Sì, ma cioè l'idea tutto è nel però senso stessa, che tutto nel senso che ogni cioè il cosa. creato è uno, Cioè, che non ogni so cosa è come. uno, cioè sono solo illusioni la separatività, non esiste separatività, esiste interessere. Cioè, voglio dire, è come se tu prendessi un'onda del mare, vuol dire che è separata dalle E infatti, poi scusa se punto un attimino, infatti in ebraico Adam è un nome altre? universale, infatti finisce per M, che è geroglificamente è il simbolo dell'universalità. E te l'hanno già detto loro che è un uomo universale dandogli quel nome, quel discorso che facevamo sull'ebraico Sì, geroglifico. È un nome collettivo, non è un nome di persona. è un nome È collettivo, un sì, nome questo lo collettivo. sapevo. Tutti gli uomini sono contenuti in Adamo, tutti i 6 miliardi. Ecco, ok, adesso torno al discorso. Questa faccenda qua, se voglio passarla ad altre persone, non gliela posso passare in teoria, gliela devo far vivere. Questa è la E difficoltà. farla vivere vuol dire che riesce a capire che un'altra persona che hai conosciuto da 2 minuti in realtà è come la conoscessi da sempre. O anche tutto un gruppo, cioè far fare delle esperienze che toccano le persone, che sono esperienze di riferimento. Certo, se no non... E tutto questo, nel momento che riconosciamo che tutto è uno, la prima cosa è che immagino che io sono anche la mia gamba, la prima cosa che so di sicuro è che non vi do una martellata sopra. E quindi se questo è il principio, vuol dire che io non darò mai una martellata a un altro, e quindi userò il linguaggio con molta attenzione, quindi userò la parola in modo amorevole, non cercherò di sopraffare mai nessuno, cioè sarà tutta una serie di atteggiamenti che ne conseguono. Quello che dicevamo l'altra sera o l'altra mattina, perché comunque era buio, perché non mi ricordo più se era sera o mattina, quando dicevamo ama il prossimo tuo come te stesso, questa frase contiene un inciampo, che noi tutti pensiamo al prossimo e non pensiamo mai chi è questo te stesso. In realtà la riflessione è chi è questo te stesso che è uguale al prossimo, sì, parti sì. Da lì, scopritelo dentro il prossimo, perché sì, sennò sì. Sembra all'esterno, dice, invece è tutto all'interno. Ecco, questo è un livello che noi sperimentiamo in modo grossolano, sì. Cioè nel senso che l'interessere sì. lo sperimentiamo così, cioè dal sì. punto di vista come di vicinanza, lontananza, sì. esperienze, sì. eccetera. C'è un fronte anche di ESP, no, su questo. Sì. Questo spiegherebbe sì. molti fenomeni. Sì. Questo è il nostro livello. Sì. È chiaro che la strada spirituale deve portare poi a una comprensione esperienziale di questo, nel senso che tu, quando hai realizzato questo, capito? Cioè i grandi maestri che sono lì, cioè. Non è che lo sanno, lo sono. Lo so. E portano, a proposito del discorso di prima, questo, allora la loro presenza porta a questo. Questo è la spinta che deve farti lavorare verso quella direzione, certo. Che poi non devi andare, né, come dice Thich Nhat Hanh, né andare né venire, devi solo stare. Certo. Il problema è togliere un po' di schifezze, no? Perché c'è già questo, c'è già tutto. Il problema è che la mia non lo vediamo, è talmente vicino alle nostre sopracciglia. E questo è il bello dell'alchimia, scusa per darti l'idea, che parte proprio da questo, prende due materie e ti dice guarda che c'è già lo spirito dentro, incomincia a togliere, certo, e esatto. Guarda cosa in succede. In questo senso è... la raffinazione che facciamo noi, no? Però succede la stessa cosa a te nel contempo. Questo, certo. Quindi tu facendo una cosa con la materia ottieni lo stesso risultato. È una via, non è che abbiamo quella mente. Entri a livello dell'anima della materia, sì. Che è la stessa però. Che è la stessa. Che è la stessa tua. È la stessa. Cioè, in pratica mi stai dicendo che lavorando sulla materia, lavorando sulle persone, si ottengono le stesse cose. Sì. Alla fine. Sì, ah, ecco, sì, ma lavorando sulle persone con questa con idea, questo principio, no? Con questo principio, certo, questo basta, certo. Che è il tipo di atteggiamento che si ha, certo. Perché anche con la materia posso lavorarci in modo da gonfiare il mio ego. Infatti non è, c'è una bellissima distinzione tra curare e prendere cura. Sì, ma la materia ti ammazza se tu fai questo. Se tu lavori sulla materia gonfiando il tuo ego, ti avvelena. Vabbè, sì, quindi è una risposta. Sì, c'è una risposta immediata. C'è una risposta, le persone ci mettono, anzi ti adorano. Ti avvelena. Se usi l'ego, le persone ti adorano. Certo, questa è la grande, questa è la grande sfida. Certo. Cioè, una delle cose che è veramente difficile da... È interessante questo passaggio, mi stai dicendo che non sapevo. Se tu lavori con l'ego sulla materia, la materia ti restituisce immediatamente, ti fa da specchio immediato. È come un elemento più puro di noi da questo punto di vista, spiritualmente. Mentre le persone non fanno così. No. Le persone... ti agganci su quello. Agganci, certo. L'ego, anzi, l'ego viene gonfiato da questo. E quindi tu mi stai dicendo, se io capisco bene, che il lavoro sulle persone può essere addirittura rischioso, nel senso che te ci perdi un gran tempo, nel senso che te gonfi l'ego, non te ne accorgi, ma sì, sì. Anche perché nella maggioranza dei casi è proprio l'ego che viene... Guarda nel suo piccolo in Aleph quanta gente dice, ma Mauro è Mauro, voglio dire, cioè quanto tu per loro sei già su un altare, cioè, sì, sì. Se te lo dico tu non ci credi, io sono stato benigno in questo corso, certo. E tanta gente mi dice, ma tu vivi con Mauro, mamma mia, come hai fatto? Ma più di una persona, guarda, siamo amici. Ma questa è la vera sfida. Oppure gli dico, sono il suo caso clinico da 25 anni, per cui ogni tanto ho bisogno di ripassare. Però questo vuol dire che comunque sia, c'è un rapporto di ego non corretto. Loro non sanno quanto tu in realtà soffri. No. Capisci? Beh, però qui si può fare qualcosa. Cioè, sì, ma questo è il lavoro. Scusate. Questo è il lavoro. Io da quando ho cambiato sta cosa, io avevo veramente delle robe. Ho cercato di mettermi nei confronti degli altri con grande discrezione, eccetera, portando veramente quello che sentivo, non quello che sapevo. Questo ha fatto veramente un po' una grossa differenza per me e per le persone. Se vuoi, la sfida per me in questo momento è capire se quello che io sento e cerco di portare fuori produce degli effetti positivi. Questo devi sperimentare. E questo l'ho sperimentato, è il motivo per cui certo. certo. In realtà non sono ancora evangelando in Australia. Allora, mentre per me è proprio il percorso un po' inverso, cioè ritirare un po' e insistere su. Però sono, come dire, assolutamente compatibili, ritengo, no? Sì. No, certo. Altro che, sai, fino a una certa età sei anche più l'idea che è più importante convincere gli altri delle tue idee, che non stare ad ascoltare gli altri. Da una certa età in poi cominci a aspettare che ascolto, che è più interessante. Sì, capisci che, come dire, cresci di più se ascolti, anche se ascolti qualcuno che dice cose su cui non sei d'accordo, comunque ti fa bene, cioè le ascolti, se ti apri le ascolti qualche cosa. Comunque proprio la trappola dell'ego, sai, ci sono dei livelli anche più sottili. Come dire, la spiritualità la possiamo usare anche come in senso egoico, allora diventa veramente tutta una grande marea nera, insomma, no? Sentite, ragazzi.